pure un'altra volta sera, che sono già stanco di luce di sole, stufo di azzurro tepore, che venga allora il buio di una notte intera ancora, che vengano le tenebre, i mostri di nostre, le streghe, i fantasmi, i morti che saltano fuori dai fossi. Collina di sabbia, la luce che dà l'ultimo bagliore di rabbia, mentre il sole resta con la solita faccia, eppure questa volta buio resta in gabbia. Buio perché quando il sole non c'è, da te che non ci vede pare voglia sempre me. Tra qui nel buio brancola cercando le porte, tra più di giorno pare avere le chiavi della sorte. Sole, grande palla di fuoco, la luce che determina la fine del gioco, per chi solo la notte sa trovare la fortuna, per quelli che la luce preferiscono la luna. Notte per me, senza stelle perché, di stesse che decenni non si sa quel che ce n'è, i giorni senza senso rincorrere il vento, i notti senza peso per rivivere un momento. Per rivivere il momento! Che venga pure un'altra volta sera, che son già stanco di luce di sole, stufo di azzurro tepore, che venga allora il buio di una notte intera ancora, che vengano le tenebre, i mostri più nostri, le streghe, i fantasmi, i morti che saltano fuori dai fossi. Della sorte, della sorte, della sorte, della sorte.